notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. C'era qualche frustrato che diceva: adesso vedi, bisogna chiudere l'esercito italiano, anche i nostri poliziotti e carabinieri sono dei delinquenti, roba da matti. Io fin dall'uscire della notizia io ho scritto, ed è su Facebook, che di qualunque razza, colore o etnia fosse quel delinquente, per quanto mi riguarda continuo a ritenere che chi mette le mani addosso a un bambino o una donna debba subire la castrazione chimica. Così l'ha riconfermato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il segretario della Lega Salvini a Radio Cusano Campus, a proposito del militare italiano che ha violentato in questa settimana una ragazzina di 15 anni a Roma. Siccome qualcuno ha polemizzato, ma la castrazione chimica la si invoca soltanto quando si tratta di extracomunitari, Salvini quindi ha ribadito che anche in questo caso. Voi vi siete già espressi diverse volte qui a Fettonotte sulla possibilità, l'eventualità di combinare la castrazione chimica, che appunto è fatta con farmaci, non immaginate delle forbici. Quindi, se volete, questo può essere uno dei temi di questa sera sul quale potete esprimere le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che attraverso i messaggi al 349-238-6666, oppure, visto che stiamo andando verso il referendum e visto che ci sono migliaia di persone in piazza ad Atene, potete anche continuare a soffermarvi su questo argomento. Vi ho chiesto in questi giorni cosa votereste voi se foste dei greci, ma anche potete immaginare adesso, fare delle previsioni, insomma, su cosa decideranno i greci domenica. Sono veramente momenti cruciali. Parleremo naturalmente anche della politica italiana, come sempre venerdì facciamo il punto delle tante cose successe. Si sono concentrate, diciamo, il dibattito politico soprattutto su sempre la questione greca e sulla vicenda di De Luca, e quindi sulla legge Severino. Poi ci sono anche altri temi. Parleremo del meteo, visto che il caldo impressiona tanto e sembra che ne arriverà di più, e poi dovremo collegarci anche con l'avvocato di Massimo Bossetti, unico imputato per il delitto di Yara Gambirasio. Oggi è iniziato il processo, c'è stata la prima udienza, poi è stato rinviato comunque al 17 luglio. Quindi vi ripeto, pagina Facebook di Effetto Notte, che sapete, è sempre lì per voi, oppure gli sms al 349-238-6666. Intanto, mentre riflettete, ricostruiamo sinteticamente la giornata. Grecia, il paese verso il referendum di domenica. Tsipras fa un nuovo appello per il no, manifestazioni e scontri in piazza. Le banche greche sono ormai senza soldi. Economia italiana, la crisi greca rallenta la ripresa in Italia. Il Tesoro annuncia poste in borsa entro l'anno. Il delitto di Yara, ha iniziato il processo a Bossetti, che dice: mi fido della giustizia, si riprende il 17 luglio. Lo stupro della quindicenne a Roma, secondo gli inquirenti il militare aveva pianificato la violenza. Consiglio dei Ministri, via libera un unico decreto che contiene le misure che per impedire il blocco dell'altiforno 2 dell'Ilva e per sbloccare le aree dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Occupazione, secondo i dati Istat la ripresa del lavoro non è ancora stabile. Pubblica amministrazione, arriva il declassamento volontario per non essere licenziati. Legge Severino, sospeso il sindaco di Pietrasanta, atto del prefetto per Massimo Malegni di Forza Italia che annuncia ricorso. Uber si arrende, servizio Uber Pop sospeso in Francia. Meteo, allarme caldo, weekend da bollino rosso in 10 città, protezione civile in allerta. Saldi estivi, domani partono anche a Roma e a Milano. Naturalmente potete immaginare da dove si parta, dalla Grecia. Oggi termina la campagna elettorale per il referendum, con l'ultimo duello tra i sostenitori del sì e quelli del no. Secondo la polizia greca, circa 25.000 persone si sono riversate in piazza Sintagma nel cuore di Atene per sostenere il fronte del no nel referendum di domenica. È arrivato anche Tsipras in piazza. E poi nei pressi invece dello stadio Panathenian si sta svolgendo la manifestazione di coloro che sostengono il sì, ovvero accettare i termini del salvataggio chiesti dalla Troica. Qui sembra, stando alla polizia, qui ci sarebbero 17.000 manifestanti. Tra poco però ci colleghiamo con Atene. Intanto, per quanto riguarda l'Europa, l'Europa continua a ribadire che il no indebolirebbe la Grecia e l'Europa stessa. L'Europa dichiara il default della Grecia a soli due giorni dall'atteso referendum ellenico, in un clima che, al di là dell'esito della consultazione, si fa di ora in ora più cupo. Come sempre, il più esplicito è stato il presidente della Commissione Juncker, che non ha nascosto la difficoltà di ripartire lunedì a urne chiuse, qualsiasi sia il risultato. Se i greci voteranno no, la loro posizione risulterà drammaticamente indebolita, ha detto Juncker, aggiungendo che anche con un sì il negoziato si preannuncia difficile. Ad aumentare la pressione su Atene è arrivato l'annuncio del Fondo Europeo Salva Stati IFSF, che ha ufficializzato il default dopo il mancato pagamento del rimborso all'FMI. La notizia positiva è che il board del fondo ha deciso di aspettare e non chiedere ad Atene il pagamento immediato dei prestiti pari a 141 miliardi, una mossa che avrebbe portato all'uscita immediata della Grecia dall'Eurozona. Nei palazzi di Bruxelles sembra prevalere lo scoramento. Non siamo vicini a una soluzione e vada come vada, il futuro della Grecia sarà estremamente duro, ha dichiarato il leader dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Certamente c'è molta pretattica mirata a indirizzare il voto referendario, ma forte è la consapevolezza che comunque vada la partita non finirà domenica. Nella prima intervista dopo il default ellenico, il ministro delle finanze tedesco Schäuble avverte: la situazione in Grecia è drammaticamente peggiorata nelle ultime settimane, le trattative dovranno ripartire dopo il referendum, per cui nuove risorse finanziarie non arriveranno immediatamente. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda l'economia italiana, la ripresa economica prosegue, ma sul quadro macroeconomico pesa l'incognita relativa agli sviluppi della crisi greca, così dice l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Ripresa che, si legge, prosegue con una intensità più contenuta rispetto al primo trimestre. Lo stesso per l'occupazione, dice l'Istat, che dall'inizio dell'anno non si è ancora verificata una ripresa stabile del lavoro. Proprio di lavoro, nuova stretta sui dirigenti pubblici. Una sorta di declassamento volontario. I dirigenti pubblici rimasti senza incarico per un certo periodo possono infatti chiedere, per evitare di essere licenziati, un demansionamento a funzionari in deroga al codice civile. Il licenziamento invece potrà avvenire solo a seguito di una bocciatura, ovvero di una valutazione negativa sull'operato svolto. Tra le altre novità, in arrivo una stretta sugli incarichi dirigenziali, che non solo potranno essere rinnovati senza una nuova selezione una volta per un massimo di 2 anni, ma la proroga potrà essere giustificata da un giudizio positivo sull'operato del primo mandato. Cambia anche l'avvocatura dello Stato, niente posizioni direttive perché è vicino alla pensione, più spazio ai giovani e al merito. Tutte novità che sono state introdotte come emendamenti alla delega attualmente in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Ma la parte del provvedimento più rivista è quella sui concorsi pubblici. Non basterà più il voto di laurea, ma conterà anche l'ateneo di provenienza e altri fattori in grado di depurare da effetti distorsivi il famigerato pezzo di carta. Insomma, il voto preso in se stesso, slegato da tutto il resto, non sarà più un elemento chiave. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E per Poste Italiane è stata confermata la quotazione in borsa entro l'anno. Poste Italiane, grandi stazioni, ENAV nel 2015, FS nel 2016. La partita delle privatizzazioni entra nel vivo e l'obiettivo per almeno 3 dossier è quello di tagliare il traguardo entro l'anno. Piatto forte del programma, la vendita del 40% del capitale delle Poste. Operazione confermata nell'ultima riunione oggi al Tesoro. Presente il ministro dell'economia Padoan, l'amministratore delegato del gruppo Caio e gli advisor coinvolti. È stato constatato l'avanzamento di tutte le operazioni preliminari nel pieno rispetto della tabella di marcia, spiegano i vertici delle Poste, così la presidente Todini. Siamo assolutamente già nel binario della quotazione, che sta seguendo costantemente le cose dell'amministratore delegato, che ovviamente riporta in consiglio, e quello indicato dall'azionista, poi naturalmente lo indica anche il mercato, il momento migliore. L'offerta di azioni di Poste, spiega un comunicato del Ministero dell'Economia, riserverà quote rilevanti all'azionariato popolare e privilegi specifici per i dipendenti. L'operazione di quotazione viene aggiunto è percepita come un simbolo del cambiamento in atto nel paese. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca giudiziaria. Chiusa l'inchiesta Rubiter, continuano ad emergere vari particolari dopo le intercettazioni delle ragazze e la testimonianza di un conoscente di Berlusconi. Si torna ai bei tempi o brutti tempi delle intercettazioni riga per riga, parola per parola. E come a quei tempi riguardano Silvio Berlusconi. Eh sì, perché per lui, che sembrava tornato a solcare i mari della politica più o meno come un tempo, non sono finiti i processi. Anzi, è tempo di Rubiter, l'inchiesta che la Procura di Milano ha chiuso nei giorni scorsi a carico dell'ex presidente del Consiglio e di altre 33 persone accusate a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. E dopo i particolari delle telefonate, quelli della testimonianza dell'architetto imprenditore Ivo Redaelli, sentito lo scorso 17 febbraio. Ha raccontato di essersi spesso trovato nella condizione di mediare in qualche modo tra Berlusconi e Barbara Guerra. Berlusconi, parlando della guerra e di altre ragazze, avrebbe detto: io a queste appena posso le butto in strada. Era, dice Redaelli, spesso inquieto e anche intimorito. Preoccupato anche Luca Giuliante, ritenuto confidente tesoriere di Ruby. Avevi avuto un'occasione nella vita formidabile di costruirti un futuro con serenità, diceva in un'intercettazione. Ora, purtroppo, è uno tsunami. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il delitto di Iara. La prima udienza c'è stata oggi del processo contro Massimo Bossetti, unico imputato. Il muratore di Mapello ha detto di sentirsi più tranquillo, di avere fiducia nella giustizia. Comunque poi dovremo raggiungere, vi dicevo, il legale di Bossetti più tardi. Resta intanto in carcere Giuseppe Franco, il militare di 31 anni accusato di aver violentato 4 giorni fa a Roma, nel quartiere Prati, una ragazzina di 15 anni. Per il giudice non si è trattato né di un rapporto sessuale consensuale né di un abuso dettato da un raptus. La violenza, si legge nelle due pagine dell'ordinanza, sarebbe stata pianificata. E ora un'altra inchiesta, quella CPL Concordia, altri 6 arresti, indagato anche un ex senatore del PD. Dopo gli arresti per gli appalti della metanizzazione dell'isola d'Ischia affidati alla cooperativa rossa CPL Concordia, l'inchiesta della DDA partenopea approfondisce gli appalti del Casertano, che hanno interessato in particolare l'agro aversano e i rapporti con il clan del Casalesi. Oggi sono state eseguite 8 misure cautelari, una ha interessato un ex senatore del PD ed ex componente della Commissione Antimafia Lorenzo Diana, per il quale è stato emesso un divieto di dimora in Campania. Gli vengono contestati l'abuso di ufficio e il concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex parlamentare, noto per il suo impegno contro la malavita, a caldo ha commentato di sentirsi come in un sogno o su scherzi a parte. Una delle ordinanze di arresto invece è stata recapitata all'ex presidente della CPL Concordia Roberto Casari, già ai domiciliari per una precedente ordinanza ricevuta a marzo riguardante gli appalti di Ischia. Altre 2 sono state recapitate a imprenditori ritenuti referenti dei clan. Tra le accuse contestate a vario titolo dalla DDA di Napoli, associazione per delinquere e concorso esterno in associazione mafiosa. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Torna intanto a colpire, per così dire, la legge Severino. Il neosindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, di Forza Italia, è stato sospeso dal prefetto di Lucca. Il provvedimento, spiega lo stesso Mallegni, mi è stato notificato alle 16 oggi pomeriggio, lunedì prossimo presenteremo subito ricorso. Nel 2006 Mallegni, già allora sindaco, viene arrestato nell'ambito di un'inchiesta su presunti abusi e poi assolto. Parliamo dell'app della discordia. Uber Pop è stato sospeso anche in Francia. Questa volta non è un tribunale ad avere imposto la chiusura di Uber Pop, il servizio della californiana Uber, col quale praticamente chiunque abbia un'auto può diventare un tassista da chiamare e pagare con un'app sul telefonino. La decisione arriva dalla società, in segno di pacificazione con le autorità, dicono i dirigenti da poco interrogati dalla polizia di Parigi dopo le violente proteste dei tassisti francesi. Ora bisognerà attendere la decisione del Consiglio Costituzionale francese sulla legge che regola la concorrenza nel settore dei taxi, per capire se Uber Pop potrà riprendere a settembre a fare lavorare i 10.000 autisti occasionali iscritti in Francia, che hanno trasportato finora 500.000 passeggeri. Per Uber la situazione è complicata in altri paesi europei. In Germania, Spagna, Olanda e Belgio il servizio è sospeso per decisioni dei tribunali, così come in Italia, dove dal 26 maggio Uber Pop è sospeso in via cautelare in attesa di conoscere la decisione del Tribunale Civile di Milano sul ricorso della società californiana. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora i saldi da domani partono in tutti i negozi d'Italia. Dopo Campania e Basilicata, dove sono iniziati ieri, da domani i saldi estivi partono ufficialmente anche nelle altre regioni. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia in media spenderà 230 euro in vestiti e scarpe scontate, per un valore complessivo intorno ai 3,6 miliardi di euro. La spesa pro capite sfiora i 100 euro, in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Più ottimistici i pronostici per Milano, che punta anche sugli acquisti dei turisti in città per Expo, desiderosi di portarsi a casa capi made in Italy con sconti medi del 30-40%. Federmoda Milano, l'associazione degli operatori abbigliamento e accessori aderente alla Confcommercio, prevede una spesa di 150 euro a persona, in leggero aumento rispetto all'anno scorso. Nel capoluogo lombardo, domani sera, notte bianca degli acquisti in quella che è la via dello shopping per eccellenza, Corso Buenos Aires, dove i negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte. A gelare un po' gli entusiasmi per questo weekend è Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che non prevede un boom di vendite domani dopo domani a causa del gran caldo in molte città. Tuttavia, ammette Rienzi, quest'anno si registra una maggiore propensione all'acquisto e un generale clima di fiducia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di clima, del meteo, del caldo che sta arrivando, già cominciamo a sentire, parleremo dopo, alla fine, con il nostro Corazzon. Intanto leggo velocemente, prima dei giorni aggiornamenti per chi viaggia, alcuni vostri messaggi. Qualcuno sulla castrazione invocata ancora da Salvini dopo il tremendo episodio di Roma, della ragazzina di 15 anni violentata da un militare che aveva riproposto Salvini la castrazione chimica. Qualcuno dice castrazione sì. Patrizio dice: io opterei per la lobotomia transorbitale, visto che anche senza pulsioni sessuali se uno è matto, ma queste persone non sono, questi uomini non sono matti in realtà. Edo dice: ma quale castrazione chimica? Io sono per la chirurgia e magari senza anestesia. Insomma, qualcuno infierisce. Umberto da Genova: ma avrei voluto vedere un uomo, mai avrei voluto vedere un uomo piangere davanti a un bancomat che gli nega i soldi che servono per vivere. Dice: non è questa l'Europa che sognavamo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le racconto di nuovo le notizie, se non avete sentito i titoli principali, ma intanto guardavo ancora i vostri messaggi, sia sulla Grecia, sia sull'opzione di castrazione chimica a proposito di violenze sessuali. C'è Filippo 43 da Milano che dice: io voterei no al referendum, spero vinca il no, perché questa Europa a trazione tedesca va bene solo alla Germania, ma fa morire tutti gli altri, dice, i dati sono incontrovertibili. Continuate con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che con gli sms al 349-238-6666. Torniamo sui titoli. Grecia, il paese verso il referendum di domenica, paese spaccato tra sì e no. Tsipras fa un nuovo appello per il no, manifestazioni e scontri in piazza. L'economia italiana e la crisi greca rallenta la ripresa anche nel nostro paese, il Tesoro annuncia poste in borsa entro l'anno. Il delitto di Iara, è iniziato il processo a Bossetti che dice: mi fido della giustizia, si rinvia intanto al 17 luglio. Lo stupro della quindicenne a Roma, secondo gli inquirenti il militare aveva pianificato la violenza. Consiglio dei Ministri, via libera a un unico decreto che contiene le misure per impedire il blocco dell'altoforno 2 dell'Ilva e per sbloccare le aree dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Pubblica amministrazione, arriva il declassamento volontario per non essere licenziati. Legge Severino, sospeso il sindaco di Pietrasanta che annuncia ricorso. E poi per il meteo in arrivo il caldo e i saldi estivi che partono domani anche a Roma e Milano. E ora colleghiamoci subito con la nostra Valeria De Rosa ad Atene, perché vedo continuamente agenzie di Tsipras che parla in piazza Sintagma nel cuore di Atene, ci sarebbero i manifestanti per il no, invece in un'altra piazza ci sono 17.000 manifestanti per il sì. Sarebbero, Valeria, mi pare numeri abbastanza corrispondenti a quelli di qualche giorno fa, sui 20-25.000 i no, 17.000, così dice la polizia greca, 17.000 invece sì. E Tsipras sta parlando in piazza Sintagma, no? A favore dei no. Allora, Roberta, intanto per quanto riguarda i numeri credo siano abbastanza verosimili, anche se io ero tra la folla, quindi certo, Non saprei quantificarli per il meglio. Tsipras ha concluso il suo discorso più o meno un quarto d'ora fa e quindi si è sciolta la manifestazione in piazza Sintagma dei comitati a favore del no. Ancora una volta Tsipras ha richiamato i greci a votare no contro questa austerità, a votare no contro l'agonia in cui è stato trascinato il paese per molti anni. Solo qualche fischio quando ha ribadito che la Grecia, il posto della Grecia è in Europa. Questo perché i comitati che sostengono il no sono comitati molto variegati. Infatti vedo dal no totale, diciamo, all'Europa e all'euro, fino a chi ovviamente vorrebbe semplicemente un diciamo delle misure che consentissero alla Grecia di rimettersi in piedi. Infatti vedevo anche questa dichiarazione di Tsipras: domenica decidiamo di stare con dignità nell'Unione Europea, quindi evidentemente dicendo no e facendo vedere che abbiamo anche noi la nostra forza contrattuale. Esatto, diciamo sì, proprio la forza decisionale, ecco questo ha detto Tsipras, di scegliere, di decidere, consapevoli della situazione, di non farsi trascinare dalla paura, dal ricatto. Rispetto all'SMS che tu hai letto prima dell'interruzione, prima del traffico, dell'ascoltatore che diceva: mai avrei voluto vedere un uomo piangere davanti al banco, ma allora queste sono sicuramente scene che si sono verificate e nessuno vuole sminuirle, però io altrettanto da giornalista mai avrei voluto vedere certa stampa infierire in maniera anche eccessiva su una popolazione, perché ad esempio questa sera in piazza Sindagma quegli scontri che sono stati raccontati anche dalle agenzie italiane non si sono verificati proprio esattamente allo stesso modo. Io non ero qui in quel momento, ero nell'altra piazza, quella del sì a favore del sì. Accanto allo stadio si parla degli incappucciati, si parla di gente incappucciata, di scontri. Non erano incappucciati, erano semplicemente le persone che stavano qui a manifestare, che hanno, come succede anche in molte piazze italiane, che hanno gridato alla polizia di andarsene, perché da questo pomeriggio il dispiegamento di forza ad Atene è imponente, questa sera giravano anche gli elicotteri sulla capitale. A quel punto ovviamente la polizia, che ricordiamo la polizia greca non è non usa proprio i guanti bianchi, la polizia greca ha risposto, ma non con i lacrimogeni, c'è stata una piccola carica, anche qui io non voglio sminuire i fatti, però dire che c'erano 300 incappucciati che hanno tentato di forzare un cordone, quando tra l'altro il cordone non c'era perché non era bloccata via Ermu, quindi è un po' travisare la realtà. Sarebbe interessante sapere che percorso ha fatto questa modificazione, come vogliamo dire, delle notizie poi reali, no Valeria? Senti, sì, ma assolutamente, tra l'altro, scusami, aggiungo solo una cosa, in questi giorni soprattutto certa stampa anglosassone sta picchiando molto duro sulla Grecia, sui toni drammatici e tragici, che ripeto ci sono, perché le file ai bancomat sono reali, anche se non sono così eccessive come alcuni le descrivono. Altra questione è quella dei turisti, per esempio. Infatti, molti sono preoccupati. Allora, i turisti, Atene è piena di turisti, chi ha descritto Atene come una città abbandonata dal turismo, io non so quale città abbia visto, perché Atene è piena di turisti, ad esempio banalmente nel mio albergo ci sono tantissimi turisti che stanno facendo la loro visita della città e poi si sposteranno sulle isole. Io stamattina sono entrata in due tour operator in due punti diversi della città per chiedere se avevano avuto dei problemi, se avevano avuto delle disdette. Mi hanno detto di no, che continuano a lavorare moltissimo e che quindi nessuno ha cancellato fino a questo momento. Certamente comincia ad esserci qualche problema, soprattutto perché il blocco dei capitali sta avendo effetti sulle importazioni e sulle esportazioni, però questa mattina sentivo una collega che è a Corfù e mi ha detto che che è a Creta, che comunque è un'isola molto grande, e che però mi ha detto di non avere alcun tipo di problema, la gente è affabile e accogliente come sanno essere i greci. I greci, bene per i greci, visto che è una fonte importante per la loro economia, bene per i turisti, perché così sono anche più contenti ed è un circolo virtuoso. Grazie intanto Valeria De Rosa da Atene. Ciao Valeria. Grazie a voi. Ciao. Poi ci dirà Valeria del referendum come andrà nei prossimi giorni, aggiornerà nei vari programmi di Radio 24. Adesso invece soffermiamoci un po' più su casa nostra con Fabrizio Forche, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. Facciamo sempre il punto politico della settimana della politica italiana. Allora, che in questi giorni è stato sicuramente monopolizzato dalla vicenda greca, dai tir e molla, dalle ripercussioni eventuali che potrebbero esserci anche sul nostro paese, dalla figura di Renzi, Presidente del Consiglio, la sua capacità contrattuale, eccetera. Poi sicuramente in seconda istanza, anche se non troppo, il caso De Luca, neopresidente della Regione Campania, eletto dal popolo campano, sospeso per decreto e poi, in coerenza con la legge Severino, da Renzi, e poi rimesso nuovamente nel suo ruolo dal Tribunale di Napoli, come era successo qualche giorno fa per il sindaco di Napoli De Magistris. Poi volendo c'è anche stato questo doppio blitz antiterrorismo che ha riaperto un po' le polemiche, per esempio sulle moschee. E poi più in piccolo, ma continua questa annosa questione delle unioni civili, del disegno di legge che è bloccato in Parlamento da 2000 emendamenti. Ieri c'era il sottosegretario Scalfarotto qui a Effetto Notte, che ha iniziato uno sciopero della fame per sollecitare l'accelerazione. Io direi, Fabrizio, partiamo dalla Grecia e da una cosa, come possiamo dire, piuttosto audace, che il presidente del Consiglio Renzi aveva detto giorni fa prima di partire per Berlino e incontrare la Merkel. Questa visione economica, tutta incentrata sull'austerità e sulle ragioni di un bilancio di rigore, in questi anni non ha funzionato. Forse, e dico forse, ha funzionato per la Germania. ma non ha funzionato per l'Europa. Questo ha detto Renzi. Per quanto riguarda le eventuali ripercussioni sull'Italia, invece sentiamo il ministro dell'Economia Padoa. Non temiamo ripercussioni di ampia portata sulla nostra economia. L'esposizione del settore bancario rispetto alla Grecia è molto limitata, inferiore a 1 miliardo di euro. La ripresa economica, il consolidamento delle finanze pubbliche e il processo di riforma in atto sostengono la capacità di assorbimento di possibili shock legati all'impatto della crisi greca. Allora, c'è da dire che però Standard & Poor's ieri, l'agenzia di rating internazionale, ha detto che un eventuale Grexit, cioè uscita della Grecia, dell'Eurozona, costerebbe all'Italia 11 miliardi di interessi in più. Quindi come stanno le cose, Fabrizio? Ma è chiaro che tutte le previsioni lasciano un po' il tempo che trovano in questo momento. Di sicuro noi già stiamo pagando un costo per la turbolenza legata alla Grecia. In queste settimane i tassi di interesse sono saliti verso l'alto. Se si confermassero queste tendenze, già nel corso di quest'anno pagheremmo alcuni miliardi di interessi in più, nel prossimo anno salirebbero anche a 5-6 miliardi in più. Per cui è evidente, voglio dire, che un'uscita della Grecia avrebbe un impatto problematico per l'Italia, per la Spagna, per il Portogallo, e quindi la preoccupazione è alta anche da parte di chi, come Padoan o Matteo Renzi, hanno come compito istituzionale quello di tranquillizzare, ma è evidente, insomma, che guardano con preoccupazione a quello che succederà nel referendum di domenica. Diciamo che guardano con favore alle mosse di Tsipras, a quest'ultima decisione del referendum, alcuni esponenti politici italiani che pare saranno anche presenti domenica lì durante il referendum. Tra l'altro ricordo lo speciale di Radio 24 domenica, che parte alle 20, sull'esito del voto. Per esempio, fra coloro che ci saranno, parte una delegazione nutrita di Movimento 5 Stelle, lo stesso Grillo, che sentiamo che cosa ha detto in questi giorni. Avevo dei gravi dubbi su Tsipras, voglio fare pubblicamente a quell'uomo lì che si sta comportando veramente in una maniera straordinaria, e voglio dirlo pubblicamente, perché sta portando l'ultima parola al popolo greco, che dovrà votare con un referendum. Questa è la democrazia che io vorrei portare, noi vogliamo portare in questo paese. Ma c'è anche la dichiarazione di Salvini. Faccio gli auguri al popolo greco perché con orgoglio e passione rivendichi la sua libertà e di elezioni e democrazia a tutta Europa. Se fossi greco voterei no. Anche Brunetta, in realtà capogruppo alla Camera di Forza Italia, si era espresso in favore dell'atteggiamento di Tsipras. Fabrizio, perché? C'è un po' una corsa, diciamo, demagogica a sfruttare come possibile consenso interno queste vicende, che in realtà sono drammatiche e meriterebbero, secondo me, più rispetto. Proprio il popolo greco forse meriterebbe più rispetto nel prendere molto più sul serio quello che sta accadendo in quel paese, e non cercare di sfruttarlo in termini elettoralistici, in termini di consenso interno qui in Italia. Salvini in realtà ha fatto una bella intervista con Sole 24 Ore nel corso di questa settimana, sì, dove da greco ha detto io voterei per il no, ma da italiano io mi auguro che invece ci sia un accordo, magari prima del referendum. Si tiene un po' i piedi in due scarpe così. Sì, perché da una parte, come dire, ha una gran voglia di stare con la piazza del popolo greco, la democrazia diretta, insomma, il popolo che si esprime; dall'altra capisce che però la vittoria del no per l'Italia potrebbe avere conseguenze molto problematiche, e quindi con responsabilità poi su questo dice che da italiano comunque non si può augurare la vittoria del no. In quell'intervista prende anche le distanze dall'uscita dall'euro, è un'intervista in cui lui tendeva ad accreditarsi, diciamo, nel suo progetto di governo, e quindi ha cominciato anche un po' l'operazione di sganciamento da questa uscita dall'euro, che lui capisce che nel momento in cui davvero aspira a governare questo paese non può presentarsi al primo posto come programma l'uscita dall'euro. Non è credibile che in un paese come l'Italia va a governare una forza che ha al primo punto l'uscita dall'euro. Questa questione, come dire, crea imbarazzi un po' a tutte le forze politiche, li crea appunto a Salvini, che non ha una linea chiara, li crea al Presidente del Consiglio, anche Renzi ha fatto una bella intervista al Sole in questa settimana, credo, le cito perché secondo me sono politicamente le due interviste più significative di questa settimana, non perché le ha fatte a noi, ma perché effettivamente hanno un contenuto importante. E Renzi, tu hai fatto sentire uno spezzone dove lui si schiera con forza, insomma, sulla democrazia, su queste, contro questa Europa, contro l'austerità, di cui burocratica, l'austerità, la Germania, però nelle interviste è attentissimo a non prendere troppa distanza dalla Merkel. Il giorno dopo, due giorni, lui sarebbe andato dalla Merkel, mercoledì lui è andato in Germania a parlare con la Merkel, non è andato in Grecia a parlare con Tsipras. L'Italia non si può permettere comunque di stare su posizioni che sono quelle di Tsipras. Comunque, davanti a un passaggio così delicato per l'Europa, poi al di là delle dichiarazioni che uno fa per più o meno tenere consenso, però poi l'ancoraggio, diciamo, dell'Italia è da quella parte lì, insomma, è dalla parte dell'Europa e dalla parte dei creditori e di chi, non dimentichiamolo mai, ha prestato comunque 300 miliardi alla Grecia, perché poi che la Germania o che l'Europa stiano affamando e distruggendo la Grecia mi sembra una dichiarazione avventata, nel momento in cui la Germania e l'Europa, il Fondo Monetario, hanno prestato, la BCE, hanno prestato 300 miliardi di euro alla Grecia. Tra questi siamo anche noi con i nostri 40 miliardi, che se la Grecia va in default probabilmente non rivedremo mai più. Senti, ci sono altri temi, vorrei andare sulla legge Severino, però se riesci a rispondere proprio sinteticamente a Sebastiano al 349-238-6666, dice se ti posso chiedere se c'è qualcuno che sta guadagnando economicamente alla grande in questo periodo di possibile Grexit, proprio se riesci in un flash. Ma sui mercati finanziari sicuramente, quando ci stanno forti oscillazioni, c'è chi ci guadagna, non c'è nessun dubbio. Sono lì apposta, non bisogna troppo stupirsi, voglio dire, chi gestisce i risparmi delle persone per investire sui mercati finanziari cerca possibilità di guadagno, e quando, come in questi casi, ci stanno forti oscillazioni, certamente c'è chi si guadagna. Allora, sul caso De Luca, con tutte le polemiche anche tra l'altro anche interne al PD sulla sua candidatura prima da impresentabile, no, come risultava dalla lista della Bindi, della Commissione Antimafia, e poi l'elezione e la sospensione. Sentiamo cosa ha detto De Luca ieri dopo aver, diciamo, per ora vinto il ricorso. La sentenza del Tribunale di Napoli ci mette in condizione di cominciare pienamente il nostro lavoro amministrativo. È un atto che consente agli elettori di vedere rispettato il proprio diritto di scegliere da chi essere governati. Così ha detto con soddisfazione De Luca. Però poi ieri il presidente dell'anticorruzione Cantone a sua volta ha detto che, insomma, questa legge Severino va un po' rivista. La Severino è una legge, un insieme di leggi assolutamente utile e giusta. È giusto, secondo me, evidenziare una serie di criticità ed è giusto affrontarle con i tempi che il Parlamento riterrà, perché io credo che quella è una legge utilissima per il contrasto della corruzione. Però ci sono degli emendamenti da fare, lo possiamo dire adesso, che, diciamo, il caso De Luca non c'entra nulla. Poi sentiamo anche Brunetta, ricordo, l'avevo detto stasera nelle notizie, che è stato sollevato dal suo incarico anche il sindaco di Pietrasanta in Toscana, sempre in base alla legge Severino. Ma sentiamo Brunetta cosa ha detto della Forza Italia. Caos Campania continua naturalmente, perché la situazione non è finita, ma soprattutto è morta la Severino, perché è possibile che sia solo Berlusconi a pagare e tutti gli altri, soprattutto del Partito Democratico, a essere salvati? La Severino è contra personam, contra Berlusconi. Mi pare che Cantone dica anche che la Severino è da cambiare. Allora, rottamiamo la Severino, facciamo tornare Berlusconi senatore e poi ne riparliamo. È una questione molto controversa, Fabrizio Forché. Molto controversa, e io mi attesterei sulle parole vere di Cantone, diciamo, non quelle interpretate da Brunetta, che sono sempre un po' diverse, diciamo, dall'originale. Cantone riconosce che è una buona legge, un passo avanti la legge Severino, è evidente a tutti che va messa a punto sotto alcuni aspetti, perché, insomma, la vicenda De Luca è veramente paradossale. Io ero fortemente contrario a che De Luca si potesse candidare, insomma, un candidato che poi si doveva sospendere il giorno dopo l'elezione era un'assurdità. Il PD è andato avanti, c'erano state le primarie, Renzi non si è sentito a intervenire, De Luca era un candidato vincente, però si è creato un pasticcio che ha esposto la campagna per giorni e giorni senza un vero e proprio governo. Ora un giudice ha riconosciuto il diritto di De Luca a governare. Speriamo che in qualche modo questa vicenda finisca qui, perché i campani hanno, come dire, diritto ad avere un loro governo. La Campania è una regione, non lo scopriamo oggi, che ha bisogno urgente di essere governata e essere governata bene. Di certo, insomma, questa incertezza non si spera che non si debba riproporre per altri casi, e quindi se il Parlamento fa una messa a punto per individuare chiarezza poi nell'applicazione della legge, perché comunque sono state poi pronunce, ma anche di stampo diverso, insomma, una messa in ordine di questa materia sicuramente sarebbe utile, come giustamente diceva Cantone. Vediamo un'altra materia invece, quella delle unioni civili, che da quando si parlava dei DICO, di altri termini piuttosto fantasiosi, insomma, continua questo percorso accidentatissimo. E adesso la cosa un po' inusitata è che il sottosegretario, quindi un membro del governo, sottosegretario Ivan Scalfarotto, ha deciso in questi giorni di iniziare lo sciopero della fame, perché dice il disegno di legge è bloccato in Parlamento a causa di una sequela di emendamenti, ma anche da parte del centrodestra che fa parte della maggioranza di governo. Sentiamo ieri a Effetto Notte Scalfarotto. Protesto non contro la maggioranza e forse neanche tecnicamente protesto. Io quello che vorrei è che si aprisse un dibattito su questo tema un pochino più ampio di quello che c'è stato finora. L'Italia sta in quello che io chiamo il patto di Varsavia dei diritti. Noi siamo insieme alla Bielorussia, alla Moldova, alla Russia stessa, e non siamo accanto alla Francia, alla Spagna, alla Gran Bretagna, ma le dico di più, anche alla Slovenia, alla Croazia, a Malta. Noi ci troviamo in una situazione nella quale nel nostro paese si ha una violazione dei diritti umani. Il mio obiettivo è quello di avere un impegno formale da parte della politica. Fabrizio Forché, quindi da una parte un sottosegretario che si mette, diciamo, in opposizione così alla propria maggioranza, qualcuno dice se sei serio dimettiti, però lui è sentito, ha spiegato in questi termini la sua decisione. Sì, appunto, lui prende le distanze forse anche tecnicamente non è una protesta, in effetti mi sembra una protesta, insomma, i membri del governo che protestano contro il governo sono sempre un po' anomali. Ma il tema in sé? Ma il tema in sé è un tema che in Italia indubbiamente pone dei problemi politici, per il quale poi se ne parla da almeno 10 anni senza trovare una soluzione. Io mi ricordo nel governo Prodi, tra il 2006 e il 2008, ci furono delle discussioni infinite, sì, sui DICO con la Bindi, ti ricordi? La Bindi sì, aveva, benissimo. Alla fine siamo qui dopo quasi 10 anni a discuterne ancora. E temo che ne discuteremo ancora, perché le maggioranze poi non sono coese e non riescono ad approvare quello che poi, al di là, insomma, i matrimoni gay si può discutere ed è un tema al quale magari molti italiani non sono pronti ad arrivare, però che ci voglia una definizione di legge più avanzata su questa materia in Italia credo viene riconosciuto da un'ampia parte della popolazione, della gente che è più avanti della politica, diciamo. Ma credo poi alla fine anche della politica, però poi è difficile trovare comunque le maggioranze in un momento così delicato per la politica e per gli equilibri all'interno della maggioranza. Insomma, il centrodestra, che in questo momento è così in tensione, così in sofferenza nel suo appoggio al governo, se deve affrontare anche la tensione, ci dico che è un tema così delicato per loro, le unioni civili è un tema così delicato per loro, è chiaro che è il momento meno adatto per poter portare in Parlamento con qualche possibilità di successo. Sì, il problema è che non c'è mai il momento adatto, però in questo momento ci salutiamo e ti ringrazio, Fabrizio Forché, ti auguro un buon fine settimana, ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao Fabrizio. Pausa, sì. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Pochi secondi, vi do le più importanti. Roberto Giordano, sempre con voi. La Grecia, col paese che ormai va verso il referendum di domenica, ci sono manifestazioni in piazza, per ora piuttosto tranquille, tra i sostenitori del no e i sostenitori del sì. Tsipras è in piazza, piazza centrale di Atene, che di nuovo lancia un appello a noi. Poi l'economia italiana, con la crisi greca che rallenta, dice l'Istat, la ripresa anche nel nostro paese. E il delitto di Iara, prima udienza oggi del processo a Bossetti, ne parliamo tra pochi istanti. Il delitto di Yara Gambirasio, sul quale ormai sapete tante cose, sicuramente è stato un delitto, diciamo, è una vicenda mediatica, la tredicenne di Brembate Sopra, vicino Bergamo, che il 26 novembre 2010, dopo essere uscita dalla palestra di ginnastica artistica dove si allenava con le sue compagne, scomparve nel nulla. Poi il corpo fu ritrovato in un campo incolto 3 mesi più tardi, il 26 febbraio 2011, e si appurò che era stata seviziata e lasciata poi morire. Per questo delitto l'unico imputato è Massimo Giuseppe Bossetti, carpentiere di Mapello, è in carcere dal 16 giugno 2014 e l'accusa è di omicidio aggravato dalla crudeltà e dalle sevizie. Lui si è sempre professato innocente, ma secondo gli inquirenti il suo, il DNA maschile di ignoto 1, come sono sulle tracce genetiche scoperte durante l'autopsia, le ricerche di laboratorio. La prima udienza, vi dicevo, c'è stata oggi e poi è stato rinviato il processo però il 17 luglio. Perché? Chiedo all'avvocato legale, difensore Claudio Salvagni. Buonasera, avvocato. Buonasera a voi. Come mai è stato subito rinviato il 17 luglio? Beh, la giornata di oggi era dedicata alle eccezioni preliminari che abbiamo svolto. Ci sono state le repliche del pubblico ministero delle parti civili, la Corte quindi si è riservata di decidere e anziché farci aspettare magari delle ore nel pomeriggio, visto che sono questioni anche di diritto molto complesse, ha preferito rinviare e comunicarci la decisione nella prossima udienza. Anche se mi pare che la PM di Bergamo abbia detto che le risposte alle eccezioni in realtà sono già nella documentazione? Beh, non è del tutto così. Il ministero ha dato le sue osservazioni alle nostre eccezioni e la Corte dovrà decidere, insomma, dovrà valutare tutto. Comunque la prova regina rimane sempre quella del DNA, secondo gli inquirenti, no? Il DNA di Bossetti trovato nei slip di Yara. Però oltre ai test genetici, lo ricordiamo, ci sono anche le telecamere che hanno ripreso il giorno in cui Yara scomparve il furgone di Massimo Bossetti passare per 7 volte vicino a quella palestra. Poi ci sono state ricerche sul computer di Bossetti, pare che sia stato cercato più volte su Google la parola ragazzine minorenni, tredicenni provocanti. Queste informazioni non sono del tutto corrette, che il furgone non è stato mai identificato con certezza con quello di Bossetti, vi sono delle simoglianze soltanto in un passaggio, non su 7 ma soltanto su 1, e anche su questo qui non vi è certezza che sia il suo. Sul DNA c'è veramente una grandissima confusione e dei dubbi grandissimi che sono stati evidenziati anche dal Tribunale di Brescia del riesame, che ci parla di aporie. Le ricerche sul computer non sono vere, sono state smentite dagli stessi consulenti del pubblico ministero, per cui direi che regna veramente una grande incertezza e sia giusto che il dibattimento dissolva tutti questi dubbi, insomma. Comunque voi, avvocato Salvagni, siete comunque impegnati, lei e il suo collega, a smontare soprattutto la questione della prova regina, che appunto il DNA trovato dentro. Certamente. Il DNA, come abbiamo detto tante volte, non torna, in natura non esiste un DNA senza il DNA nucleare senza la sua parte mitocondriale. Questo è il caso che ci sta occupando, al quale bisognerà dare una risposta, che ad oggi non è arrivata, nessuno scienziato è riuscito a spiegare come mai questo è avvenuto. Noi riteniamo che questo sia stato possibile perché alla base c'è un colossale errore. Senta, Bossetti comunque oggi si è detto fiducioso nella giustizia? Bossetti si è detto fiducioso, ha detto tantissime volte: rifacciamo tutti questi test perché è impossibile che ci sia il mio DNA. Io questa ragazza non l'ho mai vista, non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai toccata, per cui non può esserci un mio DNA su di lei. E lui lo ha tante volte richiesto. E oggi che il processo è finalmente iniziato, lui è un uomo sereno perché crede ancora nella giustizia e pensa che il processo farà luce su tutte queste cose. Senta, tra l'altro il 17 luglio la Corte d'Assise dovrà dare risposta sulle eccezioni, dicevamo, ma anche sulla missione delle telecamere nel tribunale, ma mi pare che Bossetti le volesse o mi ricordo male? Bossetti ha sempre detto che, non avendo nulla da nascondere, non vuole sottrarsi neanche alle telecamere. E anzi, le telecamere sono uno strumento, come dire, di controllo da parte del pubblico, che tutto accada sotto la massima regolarità e rispetto del codice, per cui per Bossetti le telecamere sono ammissibili. Dal canto nostro abbiamo detto: rispettiamo il volere della famiglia, se la famiglia ritiene che sia preferibile non avere delle telecamere per non dare ulteriore spettacolo, insomma, delle cose molto tristi, a una vera e propria tragedia, dico io, bene, noi assecondiamo questo volere, insomma, non facciamo discussioni decisione sul punto, che le telecamere non ci siano, se il giudice della Corte lo riterrà, disporrà in questo modo, insomma. Avvocato Salvagni, proprio abbiamo pochi secondi, lei si è fatto un'idea allora di cosa, come potrebbero essere andate le cose? Se non è stato sì, noi con i miei, io e con i miei consulenti abbiamo raggiunto una consapevolezza, direi, basata su tanti elementi. Riteniamo che la storia sia completamente diversa da come è stata scritta dalla procura finora. Avvocato Salvagni, io intanto la ringrazio per la disponibilità e poi avremo modo di risentirci. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E di corsa adesso allo spazio europeo. Europa 24 notte. Si sono svolte a inizio giugno a Bruxelles le giornate europee dello sviluppo, appuntamento chiave a livello internazionale per il settore degli aiuti e delle cooperazioni. Sergio Nava ha chiesto a Roberto Ridolfi, direttore per lo sviluppo e la crescita sostenibile alla direzione sviluppo e cooperazione della Commissione europea, quali siano le criticità riscontrate più spesso, quanti soldi, anche a causa della corruzione presente nei paesi più poveri, si perdono. Ci sono dei risultati buoni, dei risultati meno buoni, dipende anche dai nostri partners. Gli Stati membri, il Parlamento europeo ci richiedono di lavorare anche meno con gli organismi internazionali e di fare più in casa, se vogliamo. E questo è un ottimo suggerimento che noi stiamo seguendo. Abbiamo dei programmi... Si perdono soldi quando si coopera con gli organismi internazionali? Diciamo che ci sono dei costi di transazione che sono abbastanza importanti. E di controllo forse anche. Controllo, visibilità politica. Io ho fatto l'ambasciatore e le dico che la cosa più importante è la visibilità, ma non la bandiera o il cartello pubblicitario, ma la visibilità politica di quello che si fa. E ovviamente lavorando con dei terzi, degli intermediari, questo si può perdere. Le cose di più grande impatto oggi sono, prima di tutto, non chiamiamo più aiuto, ma chiamiamoli investimenti. L'aiuto è importante perché ci sono delle zone vulnerabili, sia nei settori sia nei paesi, che dovremmo sempre far fronte con l'aiuto pubblico allo sviluppo. Ma molto aiuto pubblico allo sviluppo deve invece fare da catalisi per altri investimenti privati e anche commerciali. In questo i risultati sono ottimi. Noi nella scorsa prospettiva finanziaria dal 2007 al 2014 abbiamo avuto un effetto leva di 1 a 20. Per ogni euro dei contribuenti si sono realizzati 20 euro di investimenti nel blending, cioè nel lavorare con la BEI, con le banche di sviluppo. E sono molto contento di ricordare che la Cassa Depositi e Prestiti, con la nuova legge 125 in Italia, diventerà la banca di sviluppo italiana e quindi potrà lanciare in ambito europeo quello che altri già stanno facendo da tempo. A livello di paesi, abbiamo paesi come la Gran Bretagna, Lussemburgo, la Svezia che sono sopra il target, paesi come l'Italia sono invece ampiamente sotto il target. Voi siete delusi da questa cosa? Delusi non è la parola esatta. Diciamo che noi abbiamo l'obbligo morale ma anche istituzionale di spingere tutti i 28 a raggiungere questo obiettivo. Lei avrà visto le conclusioni del Consiglio sull'offerta da portare appunto ad Addis. E non c'è alcuna scadenza. Ma la scadenza è stata data come la prospettiva temporale di scadenza degli obiettivi che si... Però siamo abbastanza in là. In là. Io direi che una risposta a questo è: primo, ci sono più paesi oggi che hanno lo 0,7 di 10 anni fa; secondo, gli altri che non stanno a 0,7 stanno comunque più alti. Il caso dell'Italia non lo conosco e quindi non le so dire, ma dal punto di vista della forza per avere uno sviluppo e una crescita sostenibili, l'ODA non è che forse un decimo di quello che ci vuole. Quindi le continuo a ripetere: il ruolo del settore privato, gli investimenti, portare gli investimenti laddove oggi non ci vanno, questo è il cuore del problema. Lei però vede in prospettiva una tendenza dei paesi europei ad aumentare questi aiuti allo sviluppo o no? L'intenzione c'è, anche in Italia, c'è una certa intenzione molto positiva. Europa 24 notte. Collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di capire davvero questo caldo è allarmante con il nostro Paolo Corazon di Trebi Meteo, portatore sano di sole. Paolo? Buonasera Roberta, beh sì, guarda, da quel punto di vista non ci sono dubbi, sono in atto al momento dei temporali di calore al nord, ma non cambia la situazione, weekend di sole in tutta Italia, splendido, ma molto molto caldo, temperature che potrebbero toccare i 37-38 gradi e poi per colpa dell'umidità addirittura 40 sulla nostra pelle, le zone più bollenti, il nord, in particolare la pianura padana e le zone interne delle regioni tirreniche, ma in realtà dappertutto soffriremo il caldo, durerà fino a mercoledì, poi da giovedì sembra arrivare aria un pochino più fresca, in realtà anche qualche temporale, poi riprende alta pressione, quindi insomma l'estate sembra buttare bene, però attenzione, 4-5 giorni molto molto caldi. Scusa Paolo, ma non è normale che in estate faccia caldo? Hai ragione, però stavolta siamo davvero un po' sopra la media, in alcune zone ricorderà molto l'estate del 2003, quindi è un caldo forse anche un po' anomalo, diciamo così. Sarò una delle poche che lo gradiranno, grazie Paolo Corazon. Ciao Paolo, buon fine settimana a te. Vedevo intanto sulla pagina Facebook Ilaria Eloisa che scrive: torno da un sit-in a Piazza Farnese a sostegno del no, ma ci sono andata più che altro contro Angelone. Ci sono state manifestazioni anche in Italia, probabilmente ci saranno anche fino a domenica. Noi per il momento ci lasciamo, poi un aggiornamento alle 22.